alzo e mi vesto, ma somiglio sempre a un altro. Ed evito lo specchio, tanto so com'è fatto. E se cerchi un difetto è sempre mio, non dell'altro. Vuoi capirlo o non capirlo, tu mi scambi per Riccardo. Mi alzo e mi vesto, ma somiglio sempre a un altro. Ed evito lo specchio, tanto so un bugiardo. E se cerco un amplesso è sempre il primo a trovarlo. Vuoi capirlo o non capirlo, tu mi scambi per Riccardo. Prenoto per due, tanto sono sicuro che non verrà nessuno. E poi penso per due, tanto sono sicuro che non pensa nessuno. E poi mangio per due, tanto sono sicuro che non mangia nessuno. Prenoto per due. Io non sono io, purtroppo, o meglio, io non sono mio, purtroppo, o meglio. Mi alzo e mi vesto, ma somiglio sempre a un altro. Ed evito lo specchio, tanto so, poi lo spacco. E se cerco un lavoro, io mi stresso e lui è calmo. Vuoi capirlo o non capirlo, tu mi scambi per Riccardo. Mi alzo e mi vesto, ma somiglio sempre a un altro. Ed evito lo specchio, tanto so, è un bugiardo. E se faccio un incidente, io muoio, lui è salvo. Quasi quasi ci ripenso, io mi spaccio per Riccardo. Prenoto per due, tanto sono sicuro che non verrà nessuno. E poi penso per due, tanto sono sicuro che non pensa nessuno. Tanto sono sicuro che non ruba nessuno. Io non sono io, io non sono mio. Purtroppo, o meglio.